Più azzurra del blu, ma non mi diverto se non ci sei tu. Stop. Qua giù, giù, giù, giù, giù, con me, me, me, me, me. Mi abbronzo nuotando nella swimming pool, mi crogiolo al sole col naso all'insù. Stop. Ma tu, tu, tu, tu, tu, dov'è? Beh, beh, beh, beh, immaginandomi di rivedendoti. One, two, three. Nel mare che nuoti in mezzo ai pesci, ai pesci, di stile tropicale. Nel mare il bagno alle tre non si fa. L'acqua più azzurra del blu, il mondo è più bello perché ci sei tu. Qua giù, giù, giù, giù, giù, come me, me, me, me. Mi abbronzo lottando nella solitù. Ti bacio, ma non bevo più. Ma tu, tu, tu, tu, tu, dov'è? Beh, beh, beh, beh, immaginandomi di rivedendoti nel mare, che nuoti in mezzo ai pesci, di stile tropicale. Nel mare il bagno alle tre non si fa. Ma posso fare il bagno? Silvia! Rimembri ancora quello stesso lo bagno portato qua nel tasto il bagno alle tre non si fa. Ma che gente! Il bagno alle tre mamma, senti, io non si fa.